ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Marzi e Enzino, alla parte tecnica Simone. Une. Buonasera. Salve. Sara Marmesso. Allora, giovedì sera, 12 marzo 2015, inaspettatamente siamo ancora qui. Alla sedicesima volta in questa seconda edizione. Madonna, veramente incredibile. Ma di giovedì che cosa puoi fare di meglio? Per esempio, tenere le mani su. Ma questo te non ti... Uscito fuoro. Allora, iniziamo, poi dopo parliamo, va bene? Sì, siamo tutti qui. Siamo tanti, anche ma, stasera. Ma tutti belli, a parte me e te. Va bene, ok. Simo, quando vuoi, noi abbiamo finito. Buon arrivederci. Ascolto, a giovedì prossimo. Frequenza. No, dico, questo è solo l'inizio, eh. Bolle. Vuoi sapere chi erano? Sì. Curiosone. Sam the Sham and the Farahas con Wolle Bolle. Okay. Sono andato bene. Qual è veramente il titolo? Questo è quello che hai letto te. Allora, è del 65, è un classico giro di blues, Ciccio, in 12 battute, E non lo sto dicendo così a caso. Ma è mezzo tono Bob. Dopo. E non lo sto dicendo a caso, magari tutti su con le mani, dai bolle, ora. Bolle. Buon ascolto. Dal 1976 un colpo dopo l'altro e niente è più indicato della serata per Radio F. Radio F. Piazza Alta. Giovedì. Come possono ascoltarci i nostri amici? Con le orecchie. Vabbè. Allora, su 101.2 in FM. Ma anche con gli occhi, poi lo dire. Esatto, 101.2 in FM, in streaming su www.radiof.it, sì? Scaricando l'apposita app per Android ed Apple, che si chiama Radio F. E poi per allietare anche l'occhio, su YouTube c'è un apposito canale. Sì, ma come... Allora, Piazza Alta. Qui è anche la pagina Facebook dove da domani in podcast potrete riascoltare questa puntata e ma tutte chi è, le altre. Perché noi ce ne dimentichiamo troppo spesso. Chi è che è l'anima tecnica e il gusto artistico? No. Però diciamo che si dà da fare per tutte queste cose. Sì, perché poi ne parleremo meglio nel proseguo. È Simone che... Simone! Al quale mandiamo un tutti saluto. Insieme. Ciao, Simone! Un saluto, Simone! Ma dobbiamo ringraziare anche Paolo che fa le riprese filmate per il... canale YouTube, appunto, come dicevamo. E a questo punto possiamo addentrarci finalmente nel vivo di come questa fu? Puntata. Come siamo accerchiati veramente da un entità colore arancioni. E non è la nazionale di calcio olandese. Ah, meno male. Ma bensì, aspetta, una... se lo fai te, dopo non torna, ti ricordi come si faceva? Certo. Allora, ora devo fare tutta una cosa che ci siamo scritti, no? Sì, ma che non faremo? Caro il mio Marzi, questa sera abbiamo l'associazione che possiamo dire senza tema di smentita che si fa sentire di più fra tutte le associazioni foianesi, e dopo capirete perché. E si tratta della Mascherada, che non parte. Attenzione, attenzione! La Mascherada di Foiano, dopo il Tambour du Bronx, un'icona dei nostri tempi, un movimento tribale, un ritmo ancestrale, una cadenza vitale. Batte, batte forte, batte fino alla morte. Ma questa è un'altra intervista. Cassa, tamburo, rullante, piatti, stoviglie, sudore e fatica. Un successo dilagante, un segno che a Foiano i tamburi rullano e le trombe squillano. La Mascherata, questa sera a Piazza Alta. Canzoni preferite degli ultimi 44 anni. Sarà la prima volta che l'ascolto. The Blue Beetle, Roll With It. Esatto, è la prima volta che. E poi le dico velocissime, così almeno bene, non si hai capisce. Un gusto musicale in divenire. Pensa allora. Che questa è una cover degli Oasis. E visto il periodo post-invernale, avere una cover. Ed è stata pubblicata in rete il 9 marzo, ma io che te lo dico a fare? Vabbè, qualcuno, però ringraziamo ancora Simone. Simone, grazie per averci perso tempo. Figurati. Oh, ma fai un po', riposati un pochino. Mi piacerebbe. Siamo qui dal 1976. Allora, finalmente iniziamo. Come dicevamo anche prima, abbiamo un sacco di ospiti questa sera. Questa sera parliamo della Mascherada. Sì, di Foiano. Che è scritto a Masquerada. Masquerada, esatto. Che sia chiaro. E perché comunque è già diventato un marchio inconfondibile. In ogni dove. In ogni, dove. Il colore. Il colore arancione. Bravo. Con un sottofondo scuro, possibilmente nero. Sì, i pantaloni, normalmente l'uniforme, poi ce lo diranno anche loro, dovrebbe essere pantaloni neri. Sono stato io. Felpa arancione. E poi la lingerie, ora vediamo. Ora vediamo. Ma ed ecco che Marzi, come è sua consuetudine, si appresta a presentare tutti, allora, gli ospiti. Chi ci segue anche sul canale YouTube, alla mia sinistra abbiamo Roberta, detta La Tinti. Ciao. Poi abbiamo Gaba. Buonasera a tutti. Davide Capelletti. Ciao. Poi abbiamo Eddie, che è forse il ritorno più gradito, perché a parte la sua presenza fisica, che è anche gradevole. C'è non anche il marito, non, quindi stai calmo. No, ma il mio, io sono totalmente disinteressato e per ovvi motivi, inoffensivo, ma non si presenta mai a mani vuote, quindi è vero. Ecco, l'unica domanda che gli faremo all'inizio è quando aprirà la carta stagnola. Poi abbiamo Tristano. Non hai fatto dire nemmeno ciao, Eddie. Sì, ciao. L'ho detto. Ah. Ciao a tutti. Ecco, Tristano che accompagna appunto Eddie. Ciao. Poi abbiamo Marco. Sì, Marco, ho indovinato. Poi abbiamo Daniele. Ho indovinato. Ciao. Scusa, no, ho letto bene, sì. E poi Ilaria. Non è un temporale quello che sentite, è solo Marzi che alla 47esima puntata ancora non ha capito bene come funziona. 47, ma... Enzo che parla. Oh, e visto che c'è questo clima così idilliaco tra me e l'altro conduttore, detto anche il terrazzaio, possiamo pensare di fare le prime domande, tutta caro mio Marzi. Tutta invidia. Allora, io direi di partire un po' anche in maniera istituzionale. E, chi è che può darmi subito qualche ragguaglio da un punto di vista... Chi? L'Ilaria. Ilaria, sei stata nominata. Parlaci un po' della Masquerada. No, aspetta. Perché detto così... Quando nasce... Da chi viene l'idea di questa associazione, di questa cosa? Allora, ufficialmente la nostra associazione a Mascherada nasce l'11 maggio del 2011. In realtà già da un annetto ci eravamo trovati come gruppo e è nata tra un gruppo appunto di amici. L'idea è stata, i fondatori essenziali sono stati Davide Cappelletti, Ezechiel Cosentino, Daniele Del Gobbo, che nei cantieri di un nel cantiere degli Azzurri in realtà si sono ritrovati. Scherzo, e hanno dato origine a questo piccolo gruppo di amici. Dopo, con il passare del tempo, abbiamo sentito la necessità in realtà di costituire una vera e propria associazione e quindi lì è nato appunto a maggio del 2011 la nostra associazione culturale Mascherada. Il nome è un nome intrecciato, insomma, diciamo, che è nato appunto da la mascherata, come tutti ci chiamano. Come anche Marcello vi chiama, d'altronde. Come anche Marcello prima sbagliando ha detto. E la mascherata, e quindi è nata Mascherada. Voglio il replay dell'intervento precedente perché... Potrei aver sbagliato la seconda, ma la prima l'ho fatta prima sicuramente detto, bene. Ma te la prima la fai troppo veloce, però la fai sempre bene. È un po' quello, mi devo esercitare. Facciamo un'altra domanda istituzionale. Se proprio devi. Vai. Sennò ti zittirei per tutta la trasmissione. No, stai calmo. Con questo maglioncino di Ciniglia, stai calmo. Poi quello rosso, uno uguale sotto, guarda. Le cariche attuali. Allora, le attuali cariche, il presidente sono io, Ilaria Dovidio. Allora, gli abbiamo dato del tu, ma... È del colei. Ecco lei. Poi c'è il vicepresidente che è Tristano. Però, il marito della Lady che porta i dolci. No, io questa cosa la vorrei sottolineare, almeno finché non apriamo la carta stagnola. Il segretario è Veronica Biagiotti, che questa sera non è potuta venire ma vi saluta e che noi risalutiamo. Ciao Veronica, grazie, ci dispiace che non sei qui, ma sarà per la prossima. Poi c'è il cassiere, che è Marco Roghi. che salutiamo, che è qui, che è facci qui vedere le mani, sono pulite, sono pulite. Perché cassiere no, no, vabbè, dopo ne parliamo. È come Sanremo. Sanremo. Sanremo è Sanremo. E il tesoriere, chi è? Roberta Tinti. Che, è qui. Che differenza tutti c'è qui tra il cassiere e il tesoriere? Ah, perché vedi che la serata si lavora e il tesoriere non fa niente, controlla. Mi sembra un'ottima ripartizione degli impegni. È un po' come me, Enzo, nella preparazione della trasmissione. Io sono quello che lavora. Eh sì, infatti. ma e poi ci sarà anche un altro ruolo, voglio dire, importante. Sì, questi sono quelli. Questi sono quelli che riguardano appunto l'associazione, il funzionamento. Dopo c'è il personaggio, diciamo, al quale ruota tutta la mascherata, che è il direttore artistico, nonché l'ideatore di questo gruppo, che è appunto il nostro Davide Cappelletti, detto da tutti Gaba. Oh, allora, caro Gaba, noi ci siamo visti qui un mese fa praticamente, eri in altre vesti a rappresentare il Carnevale di Foiano e oggi invece sei qui come direttore artistico, maestro, come si dice? Non voglio... A me maestro piace molto. Maestro. Maestro. Allora, maestro, è direttore artistico. Se non ti offendi... Maestro, no, maestro, maestro, perché dà quel senso di artistico, ecco, durante tutta la settimana. Esatto, quindi io volevo dirti, la prima domanda intelligente è questa: come fai a camminare sempre e suonare all'indietro? No, perché tutti vanno in avanti, io t'ho visto e te no, poi ce n'ho un'altra intelligente anch'io. No, il bello è che tutti quelli che mi guardano non mi avvisano mai di quello che che sta succedendo, che ho dietro alle spalle. E a Rassina, se non sbaglio, poco tempo fa sono andato addosso a un ceppo infuocato proprio perché andavo retromarcia. Comunque ci sono abituato, è una questione di allenamento. Perfetto. Se mi posso permettere una cosa velocissima, perché Ilaria ha detto un po' come è nata l'associazione. C'erano tre o quattro persone che all'interno del cantiere degli Azzurri sono trovate nella necessità, nell'esigenza di fare un'associazione, che magari avevano questa passione per le percussioni. Allora, Gaba, questi tre in cantiere, ma che facevano? Davano la testa nei muri, battevano nelle pentole. Come l'hai individuato? No, a dire la verità, erano già un paio d'anni che davano segnali di associazione. Che è un argentino e quindi ce l'ha dentro e fa parte della loro cultura, mi proponeva questa cosa. E poi il cantiere è stato semplicemente il momento in cui più persone unite l'ho coinvolte in questa cosa, e poi con Daniele che ha costruito i primi strumenti, perché di questo ne parliamo dopo, sì, perché è importantissimo e interessante. Abbiamo messo su il primo gruppetto all'interno del cantiere, è stato un esperimento che poi dopo riuscito, però direi non siete stati fermati in tempo. Okay. Vuoi annunciare il prossimo brano? thank you. Vuoi annunciare il prossimo brano o vuoi dire un'altra bischierata? Prossimo brano. Buon ascolto dalle F Frequenze. Come on, make me rock. Samba reggae. Come on, make me jump. Samba reggae. Come on, make me rock. Samba reggae. Come on, make me jump. Samba reggae. Come on, make me jump. Samba reggae. Come on, make me bump. Questo è il ritmo che potete sentire se andate alle prove della mascherata, perché questo era Jimmy Cliff con Samba Reggae. Reggae. Ok, basta, okay, no, finito. Ero partito tanto bene. Ma a proposito di questo, invece no, ci riallacciamo subito e vi chiediamo: voi che genere suonate? E qui tutti zitti, ma noi suoniamo, ma che sei matto? Ma che ci ha chiamato a fare? Mica si chiama che è musica. Vai, allora, dai. Allora, questo che abbiamo appena ascoltato era un samba reggae. E è tipico di una zona del Brasile, siccome il Brasile è esteso più o meno quanto tutta l'Europa, ovviamente ci sono un sacco di, certo, di influenze, di ritmi diversi. Noi, essendo europei, ci cerchiamo di prendere un po' da tutte le zone, cerchiamo di fare un mix. E quindi questo qui era Salvador de Bahia, sono ritmi di Bahia, gruppo Olodum famosissimo, quello che ha fatto anche il video con Michael Jackson. Poi c'è il Rio de Janeiro, ovviamente, grandissima altra città con tutti i suoi, il suo stile, diciamo. E quindi noi cerchiamo di mischiare un po' tutto, compresi gli strumenti che non sono i soliti, proprio identici quelli in tutte le zone del Brasile. E quindi noi cerchiamo di metterceli un po' tutti in modo, ecco, tale da avere più possibilità. Perfetto. Quindi ora Marzi chiedi che strumenti. Ma tipo che strumenti? Con che intonazione glielo devo chiedere? Un po' stupito, perché... quasi stupito. Ma guarda, rimango veramente basito da quello che ha detto. Mi viene spontanea questa domanda: ma che tipo di strumenti utilizzate? Come li suonate? Quanti siete? Dove andate? Un fiorino. Ognuno di voi suona un solo strumento, ne può suonare di più. Certo, uno in una mano e un altro. No, guardate, è difficilissimo con lui cercare di mantenere un minimo di serietà. Lo so, ma questa è la bravura degli nostri ospiti. Ti mette più a disagio il contenuto delle mie domande o la mia faccia che ti guarda? È una accoppiata terrificante. Terrificante. Comunque, a parte... Infatti vado in onda sempre dopo mezzanotte. Gli strumenti sono tanti, sono diversi, sono diversificati, perché devono coprire un po' tutte le frequenze, perché non ci sono altri strumenti, certo, né a corda né a fiato. E attenzione, sta preparando. Sei triste? Ce ne avrei due o tre, ma di cose, però no, dopo se no non si capisce niente. Per esempio le frequenze 101.2 radio. Basta cuccia. Quindi partiamo dai tamburi più grandi, che sono i bassi, e sono, si chiamano surdo. Ci sono che qui, per esempio, in questa stanza li suona? Di varie misure. In questa stanza c'è la Edi, Tristano, Daniele, da pochissimo anche Ilaria. E qui. Sì. Poi ce ne sono tanti, sì, altri. Poi magari vi diranno anche loro cosa vuol dire, certo, suonare. Che esperienza certi strumenti. Poi c'è. Salendo praticamente nel gruppo e anche di frequenza ci sono i rullanti, poi i rullanti sono anche quelli, faccio per far capire, tipo quelli che si trovano anche in una banda normale, identico funzionamento, okay, del tamburo con cordiera. Poi sì, timba, shaker vari. Shaker è quello che suona Simone? Precisamente. Così ora magari chi ci ascolta da Losanna non lo sa, ma insomma facevo per capire, un altro elemento di punta non solo della mascherata, insomma. Poi tamborim, piccoli tamburi, okay, da 6 pollici. E poi ho dimenticato la gogò, che sarebbe? Sono le due campanelle, due solitamente, ma possono essere anche 3 o 5 addirittura. No, però... no, qui bisogna essere precisi su queste cose. Sono due o più, perché come ho detto prima, il Brasile perché è molto grande. Diventano go-go-go. La go-go-go-go-go. No, io guarda, sentendoti parlare... Dai, ho l'impressione che comunque in tutta questa discorso Brasile, Argentina, ci sia anche qualche, diciamo, qualche impostazione tanto per broccolare, no? Dice, fa molto figo il Brasile, la Saudade, ah, okay. Cosa. No, funziona. Non è così. Funziona, no. la mascherata. No, funziona benissimo. Benissimo, allora, se volete, se mi dite quando sulle mani, prove. Sulle mani. Funziona in tutto. Cioè, siamo tanti, quindi magari Marzi si un pochino si eccita perché non è abituato alla compagnia. Una domanda, e questi strumenti, uno, diciamo, come li vengono scelti dal singolo? Cioè, gli vengono proposti, gli vengono, c'è un amore a prima pelle? Bella domanda, Solitamente si fa un mese o due di prova. No, di prova, perché giustamente, cioè, un nuovo deve riuscire a provare lo strumento e anche io devo riuscire a capire qual è lo strumento più adatto, oltre che le esigenze poi del gruppo, perché se ci sono tutti i tamburi o tutti i surdo o tutti i rullanti, non si riesce a fare un gruppo completo. Se mi consenti, hai parlato solo te finora, ti consentirò. Ho detto cose interessanti e intelligenti, ecco, questa è la parte tecnica, però la parte proprio fisica, personale, nell'esperienza che hai avuto, cioè la singola persona come impara a suonare quello strumento? Vuoi un po' d'acqua? Cioè, bisogna esserci portati. Questa cosa, giusto per non voler parlare soltanto io, sì, infatti, bravo, la chiederei anche a loro. Io, infatti, come avete imparato? Volevo chiedervi, intanto, dopo ritorniamo alla domanda intelligentissima di Marci, ma sono stanco, guarda. Volevo appunto chiedere come mai si decide di provare ad andare a suonare in un gruppo come la Mascherada e poi come si decide cosa suonare. Chi inizia? Da lontano Tristano. Cosa, no, vieni più qua. Una passione per le percussioni, soprattutto, ecco, e per la musica brasiliana in generale. Poi ognuno può scegliere il proprio strumento in base alle proprie capacità tecniche, a volte, oppure per la passione di quel determinato strumento. Per esempio, io sono il surdo. Prima ho cominciato con una campana, battevo solo i quarti, quindi una cosa semplicissima. E poi dopo mi sono preparato per il surdo e grazie alla pazienza di Davide ho cominciato ad apprezzare lo strumento tutti, che sto suonando adesso e che guai a chi te lo tocca. Esatto. Tutti a Foiano si e ricordano, guai a chi fa come non dico io. Tra l'altro, questo si ricordano Tristano in cima alla torre campanaria che ogni quarto d'ora suonava. Suonava i quarti. Sono salito. Ci sei? Così. Allora, mentre invece voi ditemi un po' la vostra esperienza a turno, fate voi, inizia tu, Edi. Vabbè, quando non sei a cucinare i dolci per noi, ecco. Faccio anche altre cose, sì, meno male. Per esempio, io sono una delle socie fondatori del gruppo, quindi proprio dall'inizio che ci sono, ho iniziato e suonavo il tamburi, diceva prima Davide, un piccolo tamburino, però non mi dava soddisfazione. Ho suonato un anno e mezzo e poi sono passata al surdo, e grande, okay, un bel tamburo, sì. Che suonate con le mani, vero? No. Mazza e mano o con due mazze, dipende. Ok. Dipende dai pezzi. Mentre invece Marco suona la gogo, che poi diventa gogo secondo Marcello. No, la mia è solo a due campane perché già sono duro così, figuriamoci a tre. Io ho iniziato per scherzo una sera a cena al cantiere, c'avevo Davide davanti che non lo conoscevo, era amico tanto del mio suocero e mi ha convinto di venire a queste prove. Io e ci sei rimasto? Ci sono andato, l'inizio era suonare il surdo anch'io, però ho problemi di schiena e mi hanno sconsigliato. Allora Davide disse prova con queste e ho preso queste due campane e mi diverto perché è un bel gruppo e ci si sta bene. Questo credo che sia la cosa fondamentale. Io vengo da Bettoglio, oltretutto. Da fuori provincia. Daniele. Allora, io ho sempre avuto la passione per le percussioni, però non ho potuto mai praticarle. Era proprio un sogno nel cassetto, diciamo. Mi sono appassionato grazie a Davide e a Ezechiel, anzi, mi ci hanno proprio tirato dentro perché io lì per lì non ero molto, nel senso, loro li vidi un giorno a casa di mio cognato, stavano girando un pezzo della miera che erano lì in due a stringere con una pelle sopra, provare, Dico, ragazzi, scusate, che state facendo? Dice, se vuole provare a fare un tamburo. Ah, dico, se ve posso dare una mano io, dico, volentieri, no? Allora, dico, dato che faccio, lavoro il ferro, faccio il fabbro, dico, prova a farvene uno io, no? Così, e si vede che viene abbastanza discreto. E praticamente dice, ma se ne possono fare un po' di più. Ne ho fatti un po' più e hanno cominciato, dice, ma perché non viene a provare a suonare? Poi hanno detto, visto che li sai fare, anche suonare. Allora, se no, se la canta, vabbè, se la suona. È... Allora, piano piano... Sei entrato, sono entrato, sì, e ora sono anche il costruttore ufficiale. Pensa a te, pensa a te. Mentre Ilaria... Allora, io in realtà sono quella che assistiva le prove. Io andavo, accompagnavo Daniele, che è mio marito, e portavo mio figlio a vedere le prove della mascherata, perché lui ama le percussioni, è nato per suonare le percussioni. E lì ho cominciato a suonare degli ovetti, più o meno come gli ovetti del Kinder Sorpresa, e con mio figlio sulle spalle. Dopodiché Davide mi ha detto, vabbè, ma prendi due maracas. Quindi esageriamo, ho iniziato a suonare le maracas. Una botta di vita. Dopo dalle maracas sono passata allo shaker, ho suonato lo shaker per 3 anni. Hai messo su un bar? Ah, ma perché? Era scontata questa. Lo so, cioè, quelle precedenti te le ho abbonate. ho suonato per 3 anni lo shaker, poi c'è un problema con la cervicale, lo shaker sembra una banalità, ma... ti devasta le spalle. Tra l'altro stiamo scoprendo una cosa, che suonare in mascherata, insomma, non è una cosa proprio, ci vuole il certificato medico sportivo, ovviamente, a posto. Esatto, e quindi sono passata al surdo, che suono da pochissimo, la prima uscita ufficiale l'ho fatta per carnevale. Ah, quindi voglio dire, anche un'uscita importante. E finiamo con la Tinti. La Tinti è entrata nel dicembre del 2010 grazie alla mia compagna di shaker lì di merende. No, compagna di merengue, semmai. Merengue, bravo, di merengue. Io suono il ciocaglio, che è un ciocaglio, che è un tipo di shaker, sì. Aspettavo la battuta. Ma ora... Scusa. Ero avanti. E non l'ho mai abbandonato, nel senso, ormai mi piace. Proverò, probabilmente, perché poi l'esperienza... Il bello della mascherata è che poi hai voglia anche di sperimentare altre cose, no? Quindi finché... so suonare quello, so i pezzi, però poi hai voglia anche di provare a altri strumenti. Lo shaker ti forma le braccia, particolarmente. Ecco. Sì. Bene. Ilaria mi ha tradita, ora sono rimasta insieme a Simone, appunto, nella fila degli shaker. Coraggio, beh, ancora un saluto a Simone. Ancora, dai, capito? Hai però tutto il nostro sostegno. La Loredana e la Laura. La Loredana e la Laura. E basta, sì. Beh, ok. Allora, io direi che questa è sempre Radio F, no? Tante volte qualcuno dice, ma che stiamo ascoltando? È una cosa... Siamo oltre, siamo proprio... Cioè, Marcello non ha ancora capito di chi si parla, però siamo oltre. No, tra l'altro sono preoccupato perché... Le 10:30, di solito a quest'ora dormi. So, no, ma infatti non hai preso la pasticca. Che sia un suo. Allora, andiamo con il prossimo brano, che sarà sicuramente attinente, con battuta sul microfono. Senti qua, senti? Incredibile. E fra un po' ci risentiamo. Buono. We'll be right back. è Nino do Brasil, Nino do Brasil di Sego Tropical. Pensa, caro il mio Marzi, che questi sono italiani. Incredibile. Un allora, po' come ascoltare La Mascherata, che pensi di essere in Brasile e invece pa, sei a Foiano. Tutti insieme. Foiano do Ucchiano. Ma sento proprio la saudagi, che la saudagi. Lo Foiano do Ucchiano. Oh bene, quanti siamo siete? Voglio sapere quanti siete no, nella Mascherata. Così, senza preparazione, una sì, domanda a bruciapelo. Tutti 50. Si guarda. 50. Sì. No, introduco questa domanda a bruciapelo, caro Enzo. Dimmi. 50. Siamo alla 50. Perché sono tanti, sono partiti magari in un numero molto ristretto, ma sono tanti e sono di tutte le età. Bravo. E quindi E quindi ci sono dai bambini, Ilaria, dici un attimo da che età, diciamo, il più piccolo iscritto quest'anno mi sembra che abbia 5 anni. 5 anni. E a 5 anni uno che cosa gli si fa, con che cosa si fa iniziare? In realtà hanno fatto un percorso che noi abbiamo fatto dei progetti con la scuola materna, quindi si sono un po' approcciati con quello che è la mascherata già alla scuola materna, con un progetto di musica lì, di propedeutica, insomma. E poi quest'anno abbiamo introdotto la body percussion, che magari poi Davide... Ah, body percussion, a noi ci interessa. Marcello è già tutto un fuoco. Io solletica il nostro lato sadomaso, veramente... Vai avanti, Ilaria, sono noi. E poi ora da pochissimo tempo hanno cominciato a prendere un vero e proprio strumento in mano, insomma, ecco, nell'ultimo mese, diciamo. Ma come funziona? Cioè, io se avessi voglia, o chiunque avesse voglia di entrare a far parte della mascherata, cosa deve fare? Può entrare. Bussa. Anzi, bussa, suona. E gli verrà aperto. Dove bussa? Allora, in realtà noi in generale a settembre facciamo un periodo di prova dove chiunque è interessato, ovviamente lo pubblicizziamo tutta l'estate anche nelle nostre date con dei volantini, facciamo una riunione informativa e un periodo di prova che è di circa un mese. In questo mese chiunque può venire, partecipare agli incontri e fare, diciamo, ecco, una piccola propedeutica. È proprio lì, come diceva prima Davide, che in realtà le persone possono toccare con mano gli strumenti e decidere un po' per le capacità, un po' per quello che gli ispira di più, insomma, decidere poi il proprio strumento, che poi viene concordato con Davide a secondo della necessità del gruppo. Non ci sono limiti di età, quindi abbiamo gente appunto di ogni età e proveniente un po' da tutti i paesi limitrofi. Ci sono ragazzi di Arezzo, Lucignano, Monte San Savino, Bettolle, quindi ormai è una realtà che sconfina, si allunga, ben oltre. E ben poi oltre. Quelli che mi sono dimenticata, insomma, vabbè, addirittura per un periodo anche da Roma venivano. Ecco, ma venivano da Roma o stavano no, qui? No, erano venivano da Roma. Partivano da Roma, venivano a suonare e tornavano a casa. Penso, il forse mondo delle percussioni non è soltanto quello che, diciamo, fai te sul cofano della tua auto, no, quando non parte. È un mondo molto, molto interessante e da approfondire sicuramente. Bravo. No, avevamo parlato prima del body percussion. Percussion. Chi ce lo spiega? Me lo rispiego io, dato che lo curo io. Certo. Allora, l'abbiamo chiamato corso di body percussion, ma in realtà c'è anche altro. Per body percussion si intende tutto, ovviamente, il corpo e le percussioni, certo, sul corpo. Non so se avete presente gli Stomp, che sono un gruppo famosissimo a livello internazionale, quindi magari Simone dice sì, quindi per noi la nostra lo diamo cultura musicale è Simone, quindi se ha detto sì lui. Se ve lo andate a cercare potete trovare video bellissimi su YouTube. Quindi l'ispirazione è quella, utilizzare il corpo ma anche tanti oggetti che generalmente non sono assolutamente considerati strumenti, ma che possono ricreare delle atmosfere, delle ritmiche particolari. Tipo ultimamente abbiamo usato, a parte i secchi, anche materiali di riciclo vari. Materiali di riciclo, infatti abbiamo partecipiamo anche al al progetto Eco Ambiente delle Associazioni 2015, proprio riferendoci, insomma, faremo uno spettacolo nel corso di questo anno. Ora dobbiamo stabilire la data, quale sarà, se prima o forse addirittura in occasione del Festival della Mascherata, che attenzione, vi ricordo questo è importantissimo, soffermiamoci un attimo, cioè a settembre faremo il terzo Festival della Mascherata, esattamente il 13 settembre. Dove? In Piazza Alta. È lo scenario naturale, il dello spettacolo, per fare della cultura, certo, ci certo. Sarà una diretta, spero. Ma ovviamente. Basta che ce lo dite. E portate i dolci. Ma questo ci pensa Edi, non c'è problema. E quindi ecco, appunto... In questa iniziativa abbiamo partecipato, perché già l'idea c'era venuta prima, indipendentemente da questo progetto. Insomma. Ecco, io vi potrei proporre un nuovo oggetto. Potreste pensare alla Enzo Percussion. Se vi volete sfogare su una persona fisica, ve lo mando alle prove una sera. Allora, siccome io immagino Marcello, no, a suonare con voi, e cioè lui è famoso per questa proprietà, cioè sentite ritmica, il ritmo che ha, certo, sul tavolo, fa tutti i rumori del mondo e non ha fatto nemmeno una serata, cioè nemmeno un corso. La mia dodecafonia ritmica. La tua è proprio una dote più che una dodecafonia. E volevo chiedere questo: esiste innanzitutto uno strumento più importante degli altri all'interno della mascherata? Ma non uno strumentista, ma proprio uno strumento che trascina qualcosa, no? Guarda, alla faccia c'è Edi che vuole rispondere sicuramente. Secondo te, Edi, qual è lo strumento più importante che voi nella mascherata avete? Il surdo. Ovviamente. Ovviamente. No, gli strumenti sono tutti importanti. Tutti. Ecco, io... Poi ci sono delle preferenze. Io preferisco suonare il surdo rispetto al tambour in che suonavo prima. Quello poi è un gusto personale. Ho preciso soltanto che hanno tutti assolutamente la stessa importanza, compreso quello che suono io. Però quello che suono io ha la peculiarità di richiamare gli altri ai cambi, ai break, e quindi è uno strumento di chiamata. Guarda, maestro, io c'ho una curiosità da tutta una vita, ma non solo riguardo alla mascherata. Scusate, ma tutti ha fermato la crescita, ma tanti anni fa, ma e a te la caduta dei capelli t'ha accentuato. E volevo sapere, ogni tanto il maestro fischia. Che fischia? Cioè, come fate a capire un fischio, tre fischi, cinque fischi, si cambia tutti. Quante ore ci sono dietro a un fischio? Facciamo una o due prove a settimana, quindi durante l'arco dell'anno, cioè sono tante prove. Cioè, per esempio, ora si fa questo brano e sappiamo che in questo brano, la prima volta che fischia, succede questo. C'è uno studio dietro. E poi ci sono tutti i gesti con la mano. Gesti. Ecco, anche i gesti con la mano. Gesti, sì. Perché, per esempio, io mi viene in mente una banda classica, ha davanti lo spartito, bene o male, in tutti gli strumenti, voi non avete assolutamente niente, quindi andate tutto a memoria. Esatto. Allora. Vedi che si ritorna un po' al gregoriano. Volevo dire, quando la persona accanto a voi, lo chieda qualcuno, risponda a chi vuole, proprio toppa completamente. Guarda, che fate? Date la gomitata. C'è Daniele che annuisce. Mi sembra che voglia rispondere a questo argomento. No, che fai? No, niente. Fai finta di niente e vai avanti. Cioè, non succede niente. Ecco, ma vai perché avanti. Nella quantità, magari dopo noi... la martellata. Sì, no. Noi magari che siamo accanto lo sentiamo. Forse da fuori si può notare un po' meno, specialmente anche quando siamo parecchi a suonare, perché non sempre siamo nelle uscite, non è che siamo sempre tutti, insomma, però quando è un buon numero, se uno sbaglia è difficile sentirlo. Ma poi magari per un orecchio meno esperto, chiaramente se tutti ci fermiamo e uno dà un colpo boom da solo, quello cioè quello è inevitabile. No, perché infatti mi sembra che dicessero che c'è un grande turnover, perché chi sbaglia viene eliminato fisicamente. E quindi per questo le iscrizioni sono sempre aperte durante l'anno. Io avrei ancora 7000 domande, ma anche se sforiamo, inizio con la prima. Ogni tanto vi vengo a vedere, e un'altra cosa bella, oltre ad ascoltare la musica che fate, è anche vedervi, perché voi non solo suonate ma ballate anche praticamente. Questo, donna, mi sembra che sia il massimo che possa fare per farvi un complimento. Io lo manderei via, ma non per quello che dice, per quello che fa, mica per... No, ecco, anche lì vi viene istintivo o anche lì c'è uno studio, fate le prove? C'è lo studio anche lì. Roberta, quindi non è, all'inizio non è facile, perché coordinare mani e gambe non è assolutamente facile. Poi diventa, tra virgolette, sembra semplice, ma non lo è, però poi lo diventa. Ma perché si prova. No, perché a guardarvi, insomma, si vede anche che vi divertite, insomma, non è che fate, a parte la fatica fisica che ci può essere, però non è che fate fatica a seguire, insomma, si vede il divertimento vostro. Quindi voglio dire, tutto gira intorno a quello, perché non sarebbe possibile per chiunque fare una cosa se non ti piace. Certo. Qui c'è il concetto di gruppo, il concetto di condivisione, anche tornando al discorso degli sbagli, spesso uno sbaglia, però ci ascoltiamo, nel senso, essendo un gruppo tu ascolti chi hai a fianco, quindi magari ci sta che ti puoi scordare anche cos'è un break, però con gli occhi te le dici, insomma, ti aiuti, cerchi sempre di essere coeso come è un gruppo. Certo, quindi, certo. Anche perché le esibizioni hanno una durata anche abbastanza importante. Sì, cioè, io mi sono ritrovato, dipende da lui, c'è un pezzo di 25 minuti sì, senza fermarsi. Sì, sì, sì. 25 minuti, tra l'altro, siccome siamo una band itinerante, camminando con tamburi, soprattutto i surdo, questi fanno veramente fatica, con tamburi grandi in mezzo alle gambe, che vuol dire dover fare passi laterali a avanzamenti di 10 cm. E quindi avrete anche un preparatore atletico, perché e un massaggiatore dopo ogni 10 minuti una sosta. Va bene, ci rifermiamo ancora un attimo per sentire un'altra splendida brano, sicuramente grande, che Simone, Simone Percussion, questo la faccio io. Buon ascolto, appena parte. Querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Sì, mi è andato via il file mentre dovevo dire che je suis innamorato dei Tribalistas. Oh, sono tanto contento, guarda che sei innamorato, perché quando uno è innamorato vede tutto più rosa. Che vuol dire, ma... so già amare, non sono innamorato. Vabbè, comunque noi stasera vediamo tutto arancione, perché abbiamo la mascherata. Siamo ancora con gli amici della mascherata, stiamo parlando di tutto quello che è la vita sociale, ma anche musicale, di anche questa di associazione, altro. E tenendo tutti... le mani in alto! Incredibile, 40 ma stavo facendo buttate. Una riflessione. No, che da un'associazione, quindi da un cantiere del carnevale, è nata un'altra associazione che si esprime in un altro genere artistico, da quello della cartapesta a quello musicale, in un ambito veramente particolare, che è quello delle percussioni, che non è, stiamo capendo stasera insieme ai nostri amici, che non è assolutamente una cosa semplice. Non ti fermare ora. Cioè, io ho da fare, te fai delle... c'hai da fare, vabbè. A questo punto volevo chiedere a Eddie che gli ingredienti della torta che ha portato. Aprite quella torta, se no non pensa altro. Non aprite quella torta. Ah, no, ce l'ho io una domanda bellissima. Una domanda bellissima, si fa per dire. Quale ritenete la vostra miglior prestazione? Bravo, prestazione nella vostra storia. C'è una giornata che vi ricordate, una serata, qualcosa? Allora, suonare, credo, con la mascherata, per chi suona all'interno della mascherata, è sempre... un'emozione, è sempre bello. Si vede che è presidente, sì. Si sente, insomma. Abbiamo fatto un po' di uscite che in modo particolare, insomma, ci hanno emozionato. Forse una delle ultime è la Marcia della Pace ad Assisi. Ah, però, sì. E quella è stata forse una delle più emozionanti. Ma anche nel 2012, quando abbiamo aspettato alla visita del Papa ad Arezzo, è stato molto, molto bello. E poi, vabbè, Lucca Comics quest'anno a Lucca. Sì, no, lì non sono preparato, però immagino, sono andato un po' intuito, dico la verità. Marcello non c'era arrivato, vedi, zitto. Preparatissimo. Poi vabbè, pensavo il carnevale, siamo a casa, quindi è sempre l'emozione. Cioè, l'avessero fatto a Comics, ti dico la verità. Invece che a Lucca. Comics è un quartiere. Che tristezza. Marci. Aspetta, volevi fare una domanda a te? No, lo so. No, se devo... No, ricordiamo, allora, solamente una cosa... Seriamente, quali sono i vostri contatti per poter veramente venire a provare con voi? Perché Marzi ci tiene in modo particolare a provare. Poi non lo prendete, provare lo so, una cosa, facciamolo provare. Quindi c'è uno che può scrivere sul sito, su Facebook, perché voi avete un bel sito. Noi abbiamo un sito che è appunto all'indirizzo www.mascherada.it. Poi abbiamo una pagina Facebook e lì è sempre aggiornata, chiunque ci può contattare. E poi le nostre prove le facciamo, ora temporaneamente siamo spostati perché ci sono dei lavori e quindi ci troviamo alla palestra di Trani, se no le prove ufficiali della mascherata sono alla palestra della scuola elementare. Ecco, no, perché mi veniva in mente, chiunque può venire a vedere. Perfetto, normalmente in che giorni li fate? Il venerdì. No, perché mi veniva in mente anche questo, dopo cena, giusto? Dopo cena. Ecco, è ben isolato il locale, no, perché dopo cena 30, 40, 50 persone che suonano percussioni, magari, sai, Marcello per esempio va a letto alle 9 e un quarto, a parte giovedì, potrebbe disturbarlo. No, ma non è fino alle 11. Che sono le 11. Sì. Ah, ecco, quindi le 11 è l'orario. Ed estate rigorosamente con le finestre chiuse, per cui cremiamo dentro, però va bene. Crema. Sì, no, va no, bene. Vabbè, no, ma non è che, volevo dire, insomma, diciamo, è impegnativo anche trovare un posto, esatto, che atto a poter fare liberamente quello che, sì, che ci avete da fare, insomma. Già perché... siamo contenti di avere. Sì, sì, sì, sì, sì. Poi d'estate solitamente le prove si sospendono fuori, per facciamo il periodo dei 3 mesi estivi. E dove però continuate a suonare? Sì, assolutamente. No. Anzi, suoniamo di più. Giusto. Suoniamo di più e le prove che facciamo per ripassare i pezzi, magari se ce le facciamo all'aperto, dato che la stagione lo permette. Beh, infatti io volevo anche chiedere, a parte l'appuntamento del 13 di settembre di cui abbiamo parlato prima, quali saranno le vostre, se ci sono, le uscite già in calendario? Allora, le uscite già in calendario, diciamo che ora si apre per noi l'inizio della stagione, quindi abbiamo vari contatti, alcuni già ufficialmente, diciamo, confermati, altri in evoluzione, però saremo, insomma, da giugno in poi, diciamo, qui nella zona Foiano, Arezzo, e poi addirittura a Marina di Grosseto. Ah, è vero, vi ho visto sulla spiaggia suonare. Perché ora mi vengono in mente tutte queste cose che io ho visto diverse volte. È vero, sentivo bum bum bum bum, mi sono alzato dal lettino e dico: ma chi sono questi che vanno? Ma da dove verranno? Da Foiano, dal paese più lontano. Vengono tutti a Foiano. Ecco, ma e lì avevate un'altra divisa, pensa, perché ora questa è una domanda che normalmente fa Marzi sui vestiti, però la faccio io, perché adesso avete una felpa che è tipicamente invernale, ma d'estate avrete una t-shirt, giusto? Esatto. E infatti d'estate i colori della mascherata resta sempre l'arancio nella maglietta, però il pantalone, che prima Marcello diceva è nero, si trasforma nel bianco. Beh, certo, d'estate. Ma vedi, sono anche attenti un po'. Caso mai uscissero in autunno, vediamo un fucsia, insomma. Adesso abbiamo anche la divisa tunnale. Uno può fare una battuta un tono che subito, su tono. E com'è? Che è quella con il jeans. Ah, bravi, però. Ma adesso che guarda qui, che sono riportati dalla piena, eh. Ecco, stai su. Io li conosco tutti. Cioè, ma non esiste. Io guardo l'orologio. Fa molto Rai questa cosa. Guardo l'orologio e mi accorgo che il tempo è finito. Io, nostro malgrado. Nostro malgrado. Ma e forse per fortuna ci siamo salvati un altro paio di brani. Parlando e discorrendo. Ma ci rifaremo la prossima volta. Simo, fammi un piacere. Sì. Prima di finire, non è questo il foglio. L'ultima, falla solo partire. Solo perché. No, io intendevo l'ultima. No, no. Allora, ma non era questo, è quello perché... che mi mancava. Sì. Senti, no, ora mi sento donna fino in fondo. Allora, ragazzi, abbiamo finito davvero. Io vi ringrazio tutti per la pazienza che avete avuto anche stasera nel sopportare Marcello. No, visto che siete venuti l'anno scorso, cioè, almeno nella mia personale trasmissione. E questo lo racconto a tutti. Nell'organizzare la trasmissione con Marci capita che ci sentiamo in settimana, normalmente no, perché faccio tutto io, però ogni tanto abbiamo un gruppo con Simone, Marcello, condividiamo. Ho detto: ok, sentiamo i ragazzi della mascherata, se vengono ci farebbe molto piacere. Parlo con Davide che mi conferma il fatto che la mascherata viene. Non appena confermato, Marcello mi chiama e mi fa: allora facciamo una puntata un po' di replica. Dico: ma scusa, ma che dici, Marcello? Perché la mascherata è venuta l'anno scorso. Dico: guarda, io non me lo ricordo assolutamente. Ma no, come? C'era l'Ilaria con la felpa arancione, io ho proprio questa idea. E lì abbiamo chiamato il 118 e un quarto d'ora fa è stato rilasciato e abbiamo fatto la puntata. Ma perché io l'arancione della mascherata me lo porto nel cuore. Bravo, negli l'anno. Occhi e nel cuore. Tutto l'anno. Allora, grazie a tutti. E abbiamo finito, ci rivediamo l'anno prossimo, perché come dice Marcello ogni anno facciamo una trasmissione con la mascherata, un anno sì un anno no, nella sua testa, però in quell'altro poi la facciamo anche qua. Grazie davvero a tutti e vai con la no tosta. aspetta poi... ringrazio a tutti. Sì, scusa. Se vogliamo dare un nome alle persone che sono intervenute, voglio salutare Edi, Tristano, Gaba, Davide Cappelletti, Ilaria, Roberta detta la Tinti, sì, Daniele e Marco. Alla prossima. No, Tristano l'abbiamo detto, sì, all'inizio. Certo, certo. Ci torneremo con gli strumenti. La prossima volta la faremo in esterno, e però, crostini. Perché questa perché sempre dolce fa male per i zuccheri nel sangue. Non ce la faccio più. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Avete provato ad ascoltare Piazza Alta e anche la sigla? Aspetta, rifacciamola, guarda Simo, aspetta, eh. Avete provato ad ascoltare, niente, stasera non lo facciamo. Questa era Piazza Alta, c'era Marcello, Enzo, Simone e Paolo. Aolo. A giovedì prossimo. Buon ascolto dal 1976, simpatici amici.